voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Beppe Fumagalli, la storia di Candy, pioniera negli elettrodomestici da oltre 80 anni. Di Anna Marino. Innanzitutto un aneddoto che bisogna raccontare che riguarda il nome, come è stato creato il nome Candy. Mio nonno aveva realizzato questa prima lavatrice e l'aveva fatta praticamente in casa, quindi la famiglia attorno al tavolo doveva decidere il nome della lavatrice. Come la chiamiamo? La chiamiamo Eden, non è molto bello, la chiamiamo Fumagalli, insomma non mi sembra molto sexy. E mentre loro discutevano c'era la radio accesa e alla radio c'era una canzone di Nat King Cole che si chiama Candy, canzone molto dolce. Candy, I call my sugar candy. E immediatamente è scoccata una scintilla, nessuno parlava inglese di loro, a parte mio zio che era stato negli Stati Uniti, è arrivata questa scintilla, è stato fatto un collegamento logico tra il nome Candy e Candido, che ovviamente vuol dire bianco, lucente, pulito, e quindi è stato immediato dare un nome inglese al prodotto, già pensando allora che il fatto che insomma, il nome internazionale potesse connotare un prodotto tecnologico. Nasce sulle note di un ritornello di un famoso motivo jazz di Nat King Cole, Candy, il nome della prima lavatrice italiana prodotta nel 1945, come racconta l'amministratore delegato Beppe Fumagalli, terza generazione della famiglia imprenditoriale. Anno in cui le officine meccaniche Eden Fumagalli in via Gaetana Agnesi a Monza, produttrici di strumenti di precisione per macchine e utensili, realizzano la Modello 50, che viene presentata al pubblico alla Fiera di Milano nel 1946. In quell'anno le officine meccaniche Eden Fumagalli del fondatore e dei suoi tre figli Niso, Enzo e Peppino si trasformano in Candy. Oggi 100% italiana, ancora in mano alla famiglia Fumagalli, possiede 47 filiali sparse in tutto il mondo. L'ispirazione per la prima lavabiancheria elettrica arriva da oltreoceano, da uno scambio di lettere. Quando Enzo invia dagli Stati Uniti, dove era prigioniero di guerra, schizzi e descrizioni del prodotto, allora già presente in molte case americane. Se io penso a come è iniziata la storia della Candy, è la storia di mio nonno che aveva una piccola realtà imprenditoriale, era un artigiano sostanzialmente, che ha deciso di fare qualche cosa per la famiglia. All'inizio lui pensava di realizzare una lavastoviglie e poi ha mandato una lettera a mio zio che era negli Stati Uniti e che era stato deportato dalla guerra di Libia, ha chiesto: ma tu vedi lì delle lavastoviglie che si possano, mandami qualche indicazione, qualche schizzo. E dice: no, qui lavastoviglie non ne vedo, ma ci sono le lavatrici. E da lì è nata l'idea di fare la prima lavatrice italiana. Durante la guerra di Libia mio zio era stato mandato in quegli anni come soldato e lì è stato fatto prigioniere dagli americani. Non si può dire che fosse un carcere, in realtà era stato deportato ma in una situazione di sostanziale libertà, o se vogliamo di controllo. Quindi aveva la possibilità comunque di uscire, di andare, di vedere le case, di parlare con la gente, ed aveva anche la possibilità ovviamente di scambiare lettere, e attraverso queste lettere che ha scambiato a suo tempo con mio nonno ha potuto trasmettere l'idea di fabbricare e realizzare una lavatrice. Le lettere in cui spiegava, e poi legata alla lettera, non c'erano ovviamente le email allora, c'era semplicemente un foglio di carta con uno scarabocchio, uno schizzo appunto di come è fatto il prodotto. E il segreto è stato nella prova in famiglia di un prodotto che ha rivoluzionato la vita delle donne, prima di tutto, ma che da subito è stato totalmente reinventato per presentarlo al mercato italiano. Mio nonno è sempre stato molto abile in questo, quindi ha saputo realizzare con poco questo primo prototipo. L'ha fatto provare a mia nonna e mia nonna ha detto: lava. E allora da lì è iniziato tutto. Devo dire che è stato poi attraverso, diciamo, il genio di mio zio Niso, che poi si è rivelato veramente un genio perché ha in qualche modo cambiato la storia del prodotto, della lavatrice, realizzando la prima lavatrice moderna come la conosciamo noi, quindi con un buco frontale, un oblò di vetro, ma soprattutto la lavatrice è diventata da carica dall'alto a carica frontale ed è diventata da semiautomatica in automatica, grazie proprio a questo cambiamento che l'ha reso possibile. La storia di Candy, come ricorda Beppe Fumagalli, ha seguito negli anni la storia dell'emancipazione femminile, soprattutto nelle pubblicità televisive della lavatrice, ma anche, verso la fine degli anni 50, con l'invenzione della lavabiancheria moderna a carica frontale. Candy è stata una delle prime a fare pubblicità in televisione tra le aziende degli elettrodomestici. Nella storia della comunicazione di Candy si vede molto bene l'evoluzione della donna. In questo, sin dall'inizio, c'è l'elemento della libertà, liberare la donna dai problemi domestici, che sono evidentemente qualcosa che era veramente un problema. Si pensa che subito dopo la guerra le persone andavano alla fonte o dove c'era appunto dove il paese si raccoglieva per lavare i panni sulla pietra, e arriviamo da questa storia. Quindi è stato veramente la liberazione. Il bucato in casa c'è sempre pronto ai miei comandi, chi lo fa meglio di te? E a lei dico grazie, Candy. Candy ha sempre cercato di immaginare la donna a cui prometteva il prodotto, e quindi l'ha sempre rappresentata. Quindi dalle sue comunicazioni si capisce che la donna ha avuto una trasformazione incredibile, da semplicemente una persona chiusa in casa a fare i lavori domestici a una donna che si è poi completamente aperta verso il mondo, dove ormai gli elettrodomestici fanno il loro lavoro in modo autonomo, mentre la persona, la donna, ha la sua vita in piena autonomia e libertà. Via il via alla Candy e via anche lei, e subito, e al prossimo pranzo, tutto pronto per la cucina e per la tavola. Una delle pubblicità che ricordo con più chiarezza è una pubblicità dove la donna veniva rappresentata in questi momenti di libertà al cinema, che in quel momento era già un traguardo poter andare al cinema, e fumava, che quindi poteva permettersi anche un minimo di trasgressività, e sono state fatte praticamente una ogni anno diversa, ma sempre con una grande presenza della donna, fino a quelle attuali, dove diventa molto più complicato definire che cos'è la donna. Una volta era molto semplice: la garanzia di un nome amico, Candy. Nel 2015 le vendite di Candy Group hanno sfiorato gli 8 milioni di unità, con un fatturato di 952,3 milioni di euro. È formato da 47 consociate e a fine 2015 il personale ammontava a 4.100 unità. Ma la storia dell'impresa è stata costruita mattone su mattone, come una casa. Innanzitutto bisogna sapere che le cose non sono andate bene da subito. Quindi mentre mio zio e mio nonno cominciavano a fare le prime lavatrici, non c'erano abbastanza soldi in famiglia per poter dare da mangiare a tutti, e quindi mio padre era molto giovane. Il fratello intermedio, che si chiamava Enzo, che poi è scomparso abbastanza giovane, negli anni 70, lui lavorava presso un'altra azienda nel settore commerciale. Quando l'azienda ha avuto un pochettino di abbrivio, allora è stato affidato a lui l'incarico di vendere le lavatrici. Il mio padre ha fatto un po' di tutto, nel senso che è partito addirittura facendo l'assistenza tecnica, quindi andava in giro con la bicicletta, presente quelle biciclette col carrettino davanti, con sui pezzi di ricambio, andava in giro e portava i ricambi o le lavatrici addirittura da sostituire. E poi in questo, grande responsabile dei servizi aziendali, faceva anche l'amministrazione. Poi negli anni si è dimostrato quanto era bravo in realtà a fare amministrazione, finanza, facendo acquisizioni all'estero. Quindi è stata una cosa estremamente naturale. Ognuno ha seguito una propria strada, una propria inclinazione. Ed è forse una delle forze delle aziende familiari. Il centro dell'innovazione, ricerca e sviluppo rimane in Italia, a Brugherio, dove Candy si era spostata nel 1961, nella provincia di Monza e Brianza, distretto di nascita delle aziende metalmeccaniche negli anni del boom economico. Ma ci vogliono anche i valori e la saggezza della terra, e qui, racconta Beppe Fumagalli, ritorna la figura femminile e il suo messaggio. Quello che diceva mia nonna ai suoi figli: loro erano poveri, uscivano da un periodo triste che era quello della guerra, di grande povertà e sacrifici. Mio padre mi ha sempre detto che mia nonna, che io ho conosciuto per un breve periodo perché è morta anche lei abbastanza giovane, diceva fetera. E fetera vuol dire in sostanza fare ricchezza quindi diventate ricchi, dove la terra in quel momento era il simbolo della ricchezza. Tanto è vero che quando si è deciso di fare il primo stabilimento industriale della Candy a Brugherio, mio padre, il più giovane di tutti, andò da questo nobile proprietario di terre e comprò un grande appezzamento di terreno. Mio padre mi ha detto una trattativa disperata perché i soldi erano pochissimi. Acquistato questo grande terreno proprio a bordo dell'autostrada che stava nascendo proprio in quel momento. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.